insomma, negli ultimi 20 anni siamo cresciuti su 150 paesi al 152esimo posto. Non è possibile, gli altri due avevano una guerra civile in Africa. Noi abbiamo il terzo debito pubblico al mondo, siamo più o meno l'ottava o una decima nazione. Quindi cosa succedeva? La nostra velocità inerziale si era fermata. Ho detto qua bisogna fare qualcosa. Secondo, non riconosco quasi più l'Italia. Io a volte quando vengo in Italia non solo mi sento straniero perché ormai ho vissuto metà della mia vita fuori, quindi capisco che la sensibilità è cambiata, però vedo un paese allo sbando dal punto di vista sociale e morale, manca proprio il rispetto civile. E un po' di amici mi hanno detto: Davide, guarda, è inutile che tu parli, discuti, o fai qualcosa o stai zitto. E io gli ho detto: sai che ti dico, avete ragione, no, io qualcosa lo faccio. Come dici tu, hai usato una parola che penso sia corretta, testimonianza civile. E a un certo punto ho conosciuto due anni fa, ho iniziato a seguire il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, poi sono andato a incontrarlo, sono io che gli ho mandato un'email, e mi ha colpito. E ho detto: sai che ti dico, penso che le tue idee siano più o meno corrette, se venissero implementate l'Italia potrebbe cambiare. Hai un programma economico che non è un programma coerente, che oggi potrebbe portare i grandi gruppi con cui io parlo esteri a reinvestire in Italia, che è poi dove ho un minimo di competenze che posso portare, e socialmente il creare asili nido, il cercare di portare un po' più di meritocrazia, ecco, sicuramente non mi sembra una cosa sbagliata. E quindi ho deciso di sostenerlo con idee, fondamentalmente, e poi con le persone che conosco, dicendo: guardate, questa è una persona in gamba, a me piace, datela a vedere, poi ognuno decide, ecco.